Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Economia, stile di vita, ambiente, mobilità, capitale sociale, governance e infine il livello di legalità. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, sono queste le sette dimensioni attraverso cui Forum PA, in collaborazione con Open Policy, ha analizzato le città italiane e stilato l'iCity Rate 2015, la classifica delle città italiane più smart, che ieri ci ha illustrato Gianni Dominici, direttore di Forum PA, che è tornato a trovare. Buonasera, bentornato. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora Dominici, proviamo a dare diciamo qualche chiave di lettura in più a questa classifica di ieri. Appunto ieri abbiamo visto che anche quest'anno sul podio sono arrivati nell'ordine Milano, Bologna e Firenze, seguiti poi da numerose città più piccole. Partiamo da Milano. Qual è l'elemento qualificante, quello che le consente di mantenere stabilmente, direi, la vetta, da quello che dite? Ma guardi, le caratteristiche di Milano, è evidente, una città complessa, sono molteplici. È la capitale economica, questo pesa moltissimo, non c'è dubbio. Esattamente, io prendo 4-5 indicatori tra i primi. È evidente che è una città che è prima nell'ambito del settore economia, è prima in capitale sociale, è messa bene in mobilità e così via. Ma devo dire che quello che contraddistingue Milano, anche lavorandoci e approfondendo i valori, è che è una città che ha recuperato la logica della sperimentazione. È una città che non solo è locomotiva dal punto di vista economico, ma è anche una città che sta sperimentando nuovi modelli di gestione del territorio. Soprattutto negli ultimi anni. Sì, cito fra tutti la diffusione del car sharing, che poi è diventato anche con gli scooter, con le biciclette, con il bike sharing, eccetera. Ecco, l'utilizzo ad esempio dell'economia della condivisione. Ecco, senta, un altro fenomeno interessante che emerge dalla vostra classifica è quello, diciamo così, delle piccole capitali. Allora, si è sempre discusso di come il fattore dimensionale avrebbe influito sulla possibilità di realizzare questo disegno della Smart City, no? E noi siamo pieni in Italia di città medio piccole, pochissime grandi città. Qui ci sono delle buone notizie, possiamo dire così? Sì, se andiamo a prendere i primi 10 in classifica, 4 sono aree metropolitane, ma 6 città sono città di medie dimensioni. E c'è il caso di Modena, che è veramente impressionante. Modena è la quarta città in Italia, e non lo è per, diciamo, per il parmigiano reggiano e tortellini, per, no? Per la qualità della vita, perché ci si muove in bicicletta, lo è anche per questo, ci mancherebbe altro. Ma se andiamo a vedere gli indicatori, è una città ai vertici per performance economiche, per capacità di produzione brevettuale, cioè di brevetti, per presenza di start-up, quindi è veramente competitiva in tutti i suoi aspetti. Dal punto di vista economico, e poi però ci sono anche tutti i servizi sociali che funzionano, sì. Mi diceva, no? Sì, questo le dicevo, quindi mettiamo insieme l'economia con la qualità della vita, col capitale sociale e con la legalità, ecco, insieme a una miscela che fa sì che una città di medie dimensioni competa con le grandi città. Questa situazione non è così rara, in realtà abbiamo visto che le prime 10, 6 sono appunto città medio-piccole che riescono però ad avere questa capacità innovativa a ricavarsi questo spazio. Sì. È un qualcosa su cui dobbiamo riflettere anche in termini politici, perché quando parliamo di città non possiamo parlare solo dei problemi e delle esigenze delle grandi città. Queste città di medie dimensioni rappresentano in questo momento l'elemento di connessione fra il nostro sistema urbano e sono strategiche anche per il futuro. Quindi è importante tenere presente che è un importante investirci anche in termini di finanziamenti anche a livello europeo. Il grosso è concentrato sulle grandi conurbazioni, no? Esattamente, quando si parla di città delle aree metropolitane, quindi anche a livello nazionale, il cosiddetto PON metro, quindi finanziamenti nazionali sulle città sono prevalentemente rivolti alle grandi qui, città. Insomma, ci sarebbe bisogno di un aggiustamento. Senta, veniamo al sud. Un aspetto che viene fuori molto chiaramente dalla vostra ricerca è la solita Italia divisa in due. Sì, purtroppo sì, se andiamo a vedere la cartina dei nostri indicatori, un'Italia a due colori. Purtroppo la prima città del sud, che si conferma Cagliari, è sessantesima in classifica generale, quindi la prima città del sud arriva al sessantesimo posto. Devo dire che però, ecco, questo è emerso quest'anno, ci sono degli elementi di speranza, no? Di speranza, sì. Lecce è la città che in assoluto è cresciuta più in termini di punteggio da un anno all'altro. In tutta Italia. È una città anche lì che sta facendo laboratorio. Io uso questa parola nel senso che insisto sul concetto che una città, per essere ben governata, deve anche sperimentare nuovi modi di risolvere i vecchi problemi. Certo, per trovare delle vie, non funzioneranno tutti, ma alcuni faranno la differenza. Esattamente, esattamente. Dico sempre, non possiamo governare il futuro con una pubblica amministrazione del passato. Ecco, dobbiamo sperimentare nuovi modi di mettere insieme le competenze di chi ci governa con le risorse che vengono dal territorio, associazioni, singoli cittadini, no? Il concetto di cittadinanza attiva. A Lecce hanno dato spazio a questo approccio e vediamo i risultati da un anno all'altro. Va bene, grazie Gianni Dominici. Grazie a voi, buonasera, buon lavoro. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata.